in primo piano. L'IRAP, questa tassa che da molti è vessata, è oggi in primo piano. Il premier pronto a tagliare l'IRAP è l'apertura del Sole 24 Ore, come di molti giornali. Berlusconi: cancellerò l'IRAP. Su Repubblica, La Stampa: taglieremo l'IRAP, aboliremo l'IRAP, questo è il Messaggero. La rivoluzione fiscale di Silvio, questo Libero. L'apertura del Corriere della Sera è diversa, è un altro caso che abbiamo sentito anche in GR24, è letteralmente imploso. Ricatto a Marrazzo con un video. Marrazzo è il presidente della regione Lazio e ne parleremo, ma cominciamo dall'IRAP. Come detto, Berlusconi pronti ad abolire l'IRAP, così si legge su Sole 24 Ore. C'è un commento di Guido Gentili: una mossa giusta ora diventi realtà, scrive Gentili. Dunque la questione fiscale ritorna di prepotenza al centro dell'iniziativa del governo in chiave pro ripresa, e questo è il primo dato oggettivo da cui partire. La scelta dei tempi non è casuale: dal blocco elettorale che aveva premiato a piene mani il PDL e la Lega, vale a dire il popolo delle piccole e piccolissime imprese, delle partite IVA, dei commercianti, degli artigiani, di buona parte delle aziende medie e dei professionisti, si era alzato forte il vento per una richiesta d'azione. Lo stallo riformista non è nelle corde di questo popolo, né di tutti coloro che a vario titolo sociale attendono una svolta in direzione di un paese che si sviluppa, crea ricchezza e posti di lavoro fissi e mobili. E tra l'altro il Sole 24 Ore all'interno con Laura Serafini ci fa sapere che ci sono già delle proposte utilizzabili, alcuni emendamenti alla finanziaria firmati in questo caso dal senatore Augello con il senatore Baldassarri, che potrebbero già andare in questo senso. Se il premier ha deciso di procedere a una riduzione graduale dell'IRAP utilizzando la franchigia, lo strumento già c'è, è previsto appunto in alcuni emendamenti alla manovra finanziaria già depositati al Senato. Ma ovviamente questa vicenda dell'IRAP ne fa seguire un'altra che troverete ampiamente analizzata sui giornali e ne parliamo da alcuni giorni, vale a dire i rapporti pare sempre più tesi tra Tremonti e Berlusconi, esponenti dell'esecutivo. Tremonti a Berlusconi: chiarire o pronto a lasciare? Questo è sul Corriere della Sera. Tarda sera è arrivata la telefonata di Gianni Letta, subito dopo quella di Silvio Berlusconi. Oggi l'incontro, stamattina in Consiglio dei Ministri, ma la ricomposizione, secondo il Corriere, non sarà facile. Giulio Tremonti ha detto chiaramente al Premier di essere sull'orlo delle dimissioni. Questo scrive Mario Sensini sul Corriere della Sera. Ma guardate, è un po' analizzato da tutti, il giornale addirittura fa un titolo esplicito, l'apertura di prima pagina: giù le tasse, Tremonti in bilico. Il Cavaliere è deciso ad abbassare la pressione fiscale, ma il Ministro dell'Economia tiene duro, c'è aria di dimissioni. Ora giù le tasse, ma salvate Tremonti. Tra l'altro Feltri fa un editoriale in cui dice: sarebbe un errore rinunciare a Tremonti, e vi spiego il perché. Giulio assediato con la tentazione di mollare tutto, anche questo si legge su Libero, in cui ci sono anche alcuni tremontiani, per la verità in via anonima, intervistati, arroccati. Questa è una coltellata di Silvio, questa dell'IRAP, insomma il taglio dell'IRAP, sul quale Tremonti si era espresso invece con molta più prudenza. E voglio andare a questo punto sul Foglio. Il Foglio: ecco come il Cavaliere inaugura la strategia di pacificazione sociale. Scrive in prima pagina il Foglio: il Presidente del Consiglio intende chiudere con questa mossa la stagione del gossip e del veleno, con una campagna che affianchi ai progetti di riforma istituzionale e giudiziaria una serie di iniziative che acquietino Confindustria e mettano col taglio delle tasse qualche denaro in più nelle tasche dei lavoratori subordinati. Ovviamente si legge: l'annuncio del Premier sembra smentire la politica della flemma di Tremonti, però dice il Foglio, attenzione, perché non è il 2004, anno del temporaneo allontanamento di Tremonti, come spiegano gli antipatizzanti nel centrodestra, perché Tremonti raccoglie oggi i frutti della riforma delle fondazioni bancarie che promosso nel 2002. Certo, scrive il Foglio, il ministro non è nuovo a impennate caratteriali dagli esiti imprevedibili. Addirittura il Riformista titola così: tremontato, Berlusconi lo bypassa, Draghi lo rimbrotta. C'è anche questa frase del governatore Draghi, che dice ieri in un convegno, in un incontro pubblico, ha detto no ai pogrom degli economisti, gli economisti servono, e sappiamo insomma che uno che si è espresso di recente più duramente nei confronti degli economisti è proprio Tremonti. Addirittura su Repubblica si riportano quelle che sarebbe una frase di alcuni dei sempre i tremontiani, insomma siamo a retroscena, I tremontiani, i cani, hanno fiutato il sangue e si sono messi ad abbaiare, dice un forzista leale a Tremonti per spiegare il clima di accerchiamento del ministro dell'economia. Questo scrive Francesco Bei su Repubblica. Ma insomma, su questa vicenda dell'IRAP trovate davvero tanti commenti e tra l'altro Oscar Giannino ne parlerà alle 9 in punto e dunque lì potremo approfondire. Voglio cambiare tema e arrivare a quella che è l'apertura del Corriere della Sera, il ricatto a Marrazzo. Ebbene, che è successo? Sono stati arrestati 4 carabinieri per il ricatto a Marrazzo. Questo si legge un po' su vari giornali, non su Repubblica, ma su tutti gli altri giornali. Sì, arrestati 4 carabinieri, il governatore del Lazio, non ho pagato. Cosa sarebbe successo? Sono stati arrestati per un'estorsione, leggo da Fiorenza Sarzanini sul Corriere, un'estorsione da 80.000 euro al presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, soldi che sarebbero stati versati in 4 tranche per evitare la diffusione di un video che ritraeva l'esponente del Partito Democratico in un incontro intimo. Tra l'altro Marrazzo è intervistato dal Corriere, una breve intervista, dice: non mi è arrivato mai nulla, ho saputo che si parla dell'esistenza di un filmato, io posso dire che non mi è stato dato niente, è un gossip, non ho mai pagato nulla, nego di aver versato mai soldi, ho saputo degli arresti, sono stato informato delle indagini, ma è soltanto gossip senza fondamento. E però lo troviamo un po' ovunque, ricatto a Marrazzo, arrestati 4 carabinieri su Il Messaggero, spiano un incontro del governatore, tentano un'estorsione, la replica, tutto inventato per danneggiarmi. C'è anche Guido Rovotolo che ne parla sulla Stampa e parla di una storiaccia, di una banda che ricatta un uomo delle istituzioni, il quale finisce sotto scacco e alla fine decide di pagare sperando di uscire dall'incubo, perché questo secondo gli inquirenti avrebbe fatto, Marrazzo avrebbe pagato. Tra l'altro voglio segnalare Libero, perché sono stato tentato se segnalarlo oppure no, ma insomma la rassegna stampa è questa. Io spero che un titolo del genere venga poi confortato da qualcosa, perché il titolo è già forte. Marrazzo ricattato per un video con il trans. Arrestati 4 carabinieri avevano un filmino hard del politico e volevano denaro per farlo sparire. Il governatore dice: sono una vittima, un video hard dove sarebbe in compagnia di un transessuale, scrive Andrea Valle, passato di mano in mano fino ad arrivare a quelle dei 4 carabinieri che, invece di distruggere la pellicola o restituirla al presidente della regione, avrebbero tentato a quel punto un'estorsione da 80.000 euro allo stesso Marrazzo. Si vedrà. Come trovate ampie pagine su quello che viene denunciato come il presunto sistema Mastella, vale a dire il sistema delle raccomandazioni all'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Regione Campania. 655 raccomandati, o forse più, con l'elenco dei politici che li avrebbero raccomandati. Mastella ieri si è difeso, avete sentito. Sono come San Clemente, mi mettono una pietra al collo per farmi affogare e più risalirò. Non ha negato qualche segnalazione, ma non raccomandazione. Troviamo stralci di verbale un po' ovunque. Sul Corriere della Sera Fulvio Bufi, per esempio, racconta: ma i raccomandati almeno funzionavano, non tanto a giudicare dalle parole del dirigente dell'ARPAC Carmelo Lomazzo in una conversazione telefonica. In coppa 10 cose, 9 non le sape fa. E mi scuso per il napoletano, cioè su 10 cose 9 non le sa fare, parla di un raccomandato. Di un altro non viene mai, di un altro ancora sta malato, di un certo Renzo è nudemente, e chiude avvilito: dimmi tu come posso portare avanti una struttura che gestisce 100 milioni di euro, costa gente qua. Dunque pare dall'inchiesta raccomandati eppure un po' fannulloni. Su Il Riformista: il parente di Mastella era pagato 10 volte più del consentito. Questo è un po' anche il retroscena che Titti Beneduce scrive di quello che sarebbe lo scandalo nello scandalo, cioè ecco il reato. Carlo Camilleri, consuocero di Sandra e Clemente Mastella, avrebbe ricevuto un incarico in cui, secondo la legge, avrebbe potuto ottenere al massimo 140.000 euro, l'ingegnere invece ottenne 1.300.000 euro, da qui l'accusa di truffa aggravata ai danni della regione. Clemente ad personam, questo è il titolo del Fatto all'interno. Mastella, aiuto la gente povera, il suo sistema, concorso ad hoc per il dirigente Udeur, appalti per il consuocero. Ma insomma, poi ci sono le difese anche degli stessi raccomandati, o presunti tali, che dicono a Repubblica: la storia è più grande di noi, per favore non ci rovinate. Troverete la difesa di Mastella un po' ovunque. Vi ricordo che questo è il nostro sondaggio, andate a votare su radio24.it o ilsole24ore.com. Voi vi fareste raccomandare da un politico? Vi scandalizza l'idea di raccomandazione di un politico oppure l'accettereste? Continuiamo con la rassegna stampa dopo il traffico. In primo piano. Scaroni: c'è piena sintonia con i russi, l'America ha capito le nostre scelte. Questo è il titolo di un'intervista che Massimo Mucchetti ha fatto all'amministratore delegato dell'ENI di ritorno dalla missione a Mosca, dove c'era anche Berlusconi. Oggi Scaroni fa questa intervista, parla ovviamente di strategie, di energia. La prima domanda su ENI: è preoccupa la Casa Bianca? No, non è così, risponde Scaroni. Nel quadro del contrasto al terrorismo, gli Stati Uniti intrattengono rapporti con i governi e le grandi imprese dei paesi alleati. Il punto cruciale oggi è l'Iran. Noi abbiamo spiegato che ENI ha in corso lo sfruttamento di due campi petroliferi in Iran in base a contratti stipulati nel 2000 e nel 2001. Abbiamo investito 5 miliardi di dollari nei giacimenti, li stiamo riportando a casa, non ne abbiamo stipulati di nuovo di contratti. E poi ancora la Russia è il primo produttore di olio e gas al mondo, è un partner strategico, un partner chiave. Questo in estrema sintesi l'intervista più ampia che trovate all'amministratore delegato dell'ENI Scaroni sul Corriere della Sera. Voglio anche troverete molto le polemiche legate a Bruno Vespa, il conduttore di Porta a Porta: cifra troppo alta e il consiglio di amministrazione della RAI rinvia il contratto di Vespa. Vespa finisce nel tritacarne della politica, si legge a pagina 7 del giornale, mentre Marco Mele sul Sole 24 Ore spiega nel dettaglio le cifre. Qual è il problema? È che cresce il rosso di Viale Mazzini della RAI, saranno 80 milioni nel 2009, l'anno prossimo saranno addirittura 250 milioni. E allora che cosa succede? Che il contratto di Vespa, il minimo garantito al conduttore, doveva salire da 1.200.000 euro a 1.640.000 euro con un aumento del 40%, e dunque il CDA ha sospeso per il momento, concordando il rinvio. Peraltro Vespa dice: fanno bene, è giusto un chiarimento, certo si parla solo del mio contratto, di quelli degli altri no. Che ne pensate di questa? Vabbè, la mossa di Franceschini che trovate sui giornali è questa. Ha deciso, se verrà eletto alle primarie di domenica, che il suo vice sarà il deputato Jean-Léonard Touadi, che è originario del Congo Brazzaville. Che dice Franceschini presentarlo? Non sono ipocrita, lo scelgo anche perché è nero. L'ho scelto per la sua storia, perché è un politico di livello, non voglio essere ipocrita, anche perché è nero. Questo ha detto Franceschini. Voglio andare alle segnalazioni finali, e per le segnalazioni finali voglio cominciare da un'intervista che La Repubblica, Angelo Acquaro, fa a Dan Brown. Perché? Perché oggi esce in Italia l'attesissimo libro nuovo di Dan Brown, Il simbolo perduto. Parla l'uomo da 150 milioni di copie vendute, che tra l'altro dice, è vero, visto che ha fatto molti romanzi attaccati anche per esempio dall'Opus Dei, e dice: ma insomma non hanno capito che era solo un romanzo, io non cerco polemica, cerco la teatralità. È vero che ha cercato di vedere Papa Ratzinger, chiede Angelo Acquaro. Cercarlo mi sembra poco educato, lo metterei in imbarazzo, potrebbe ricevermi pensando di non doverlo fare o dirmi di no, temendo però che ci scriva sopra, cosa che non farei mai. Quindi che fa? Aspetta l'invito? Salterei su un aereo subito. Certo, non saremmo d'accordo su molte cose, ma questo non conta. E poi dice: ma come mai lei ha messo nel suo libro uno dei, che è incentrato sulla massoneria, uno dei massoni è nero? Ha pensato mica al presidente degli Stati Uniti? Il presidente è mica l'unico afroamericano del paese, risponde Dan Brown. E poi io pensavo a Morgan Freeman, sarebbe un ottimo attore, sarebbe perfetto per il film. Poi insomma dicono che lei debba molto a uno scrittore italiano, Umberto Eco. Sono davvero imbarazzato, risponde Dan Brown, ma devo ammettere che di non avere mai letto Eco, forse un po' del pendolo di Foucault. Ho visto il film Il nome della rosa, so che entrambi scriviamo di complotto, so anche che ha detto cose cattive su di me, ognuno ha il suo gusto. È vero che per scrivere lei si sveglia alle 4 del mattino? Sì, è la parte migliore del giorno, ti svegli in uno stato di sogno, sogno e scrittura sono molto simili. Questo è Dan Brown, Mr. Bestseller, intervistato da Angelo Acquaro per Repubblica. Oggi esce il libro Il simbolo perduto. Non so voi, io me lo compro e me lo leggerò sicuramente. Allora, 7:53 minuti, ci fermiamo con la rassegna stampa di oggi. Vi ricordo di votare il sondaggio radio24.it nell'home page, bianco o nero. Accettereste voi la raccomandazione di un politico? Molti ci scrivono già via SMS dicendo: ma in realtà se uno vota all'IP del computer è riconoscibile. Va bene, non vi denunceremo, votate tranquillamente, ne parleremo poi alle 8:30. Ora GR24.